I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. È stato appena convertito in legge il cosiddetto decreto Minniti del 20 febbraio di quest'anno, che si chiama Dispositive urgenti in materia di sicurezza nelle città. Minniti è l'autore di due decreti, uno sulla sicurezza nelle città e uno sull'immigrazione. Ed è molto interessante analizzare questi due decreti perché c'è un paradigma su cui da anni viene costruito l'approccio al sociale. E questo paradigma è fondato sulla cosiddetta sicurezza, tra virgolette, e sulla cosiddetta legalità, altrettanto tra virgolette. Tant'è vero che questa della legalità è una materia anche di insegnamento nelle scuole, l'hanno messa adesso, una volta c'era, come si chiamava, l'educazione civica, sì. Ecco, adesso hanno messo educazione alla legalità. Allora, però, tra l'altro, questa è solo una chicca, insomma, che si dia delle scuole, però tutto ciò fa dimenticare che cosa sia lo Stato, che cosa sia il compito dello Stato, cioè che cosa tuteli, di cosa sia espressione lo Stato, e fa dimenticare anche chi è portatore di questo progetto, cioè di questo progetto, di questo paradigma sicurezza e legalità, no? Che poi è il progetto neoliberista, però cammina con delle gambe, con delle persone, attraverso dei partiti, ed è incarnato infatti nella socialdemocrazia riformista, quindi nel PD. Questo bisogna dirlo chiaramente, perché altrimenti si dimentica sempre di chi è la colpa, di chi è il nemico, non si individua il nemico e si parla genericamente di una deriva reazionaria, di una deriva securitaria, che sono tutte cose vere, però c'è una ci sono delle responsabilità precise. Allora, però cominciamo un po' dall'inizio, perché controllo sociale, controllo dell'immigrazione, dei territori, sono tre facce della stessa medaglia che con i decreti Minniti sono portati a sintesi sia dal punto di vista ideologico che da quello legislativo. E quindi vediamoci un attimo chi è Minniti. Allora, chi è Minniti? Domenico Minniti, detto anche Marco Minniti, ha la sua formazione con i servizi segreti e con la NATO, non per ultimo è stato presidente appunto della fondazione ICSA, di cui Cossiga era presidente onorario, laureato in filosofia, già il fatto che sia Cossiga insomma un suo grande ispiratore dell'ordine pubblico, insomma, ci fa ricordare brutte padre cose, spirituale. Padre spirituale e sì. Materiale, non lo so. Il suo percorso in realtà politico, insomma, vi invito ad andare a cercare, però insomma è quello classico un po' di tutti quelli che adesso compongono la nostra cara socialdemocrazia di sinistra, no? Laureato in filosofia e poi tutta la sua formazione appunto riguarda comunque tutto ciò che ha a che fare con la difesa all'interno, quindi è stato sottosegretario alla difesa col governo Amato, vice ministro all'interno con Prodi 2, sottosegretario poi alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega appunto ai servizi segreti col governo Letta del 2013. C'è e poi col governo Renzi fino c'è al 2016. Anche la partecipazione al governo D'Alema, certo, sia il primo secondo sì, governo ovvio. D'Alema che con i DS sì, ma non dimentichiamoci mai che è quello che ha aggredito la Jugoslavia. Certo, ecco. C'era anche Mattarella, Mattarella era non so che cosa nel governo D'Alema. Assolutamente, in realtà per giustizia. Precisare bisognerebbe dire che il decreto viene chiamato anche decreto Minniti Orlando, sì. E ricordiamoci che Orlando adesso si sta giocando la partita per diventare segretario del partito, certo. Del PD, e ovviamente insomma chi è il segretario tendenzialmente poi si candida ad certo. Essere premier, quindi insomma è sicuramente meno rilevante come figura per quello che è il nostro discorso, però diciamo certo. Che l'importanza di questo decreto sulla sicurezza è tale da far sì che comunque ci sia il nome di chi adesso sta facendo testa a testa con cioè, Renzi. Cioè chi l'ha firmato ha delle responsabilità e non perché dirette. Sia l'alternativa a Renzi, semplicemente certo. Perché qua si giocano, certo. Si gioca il potere insomma di comando, ma certo. Poco cambia insomma per noi. Oltretutto questa è una chicca a margine, praticamente Minniti si entra nel partito con il PC, che più o meno quando è entrato D'Alema, insomma il periodo è quello, quando escono tutti, cioè tutti quelli che erano iscritti in FIGC, in PC e quella volta escono in massa, loro si iscrivono, questo è già illuminante. Esatto. Tra l'altro, anche se appunto possiamo pensare è laureato in filosofia, quindi questo ci possa far pensare che forse la sua formazione umanistica, no, e di sinistra possa aver dato una formazione in realtà più vicina, diciamo, all'ala di sinistra del PD, questo assolutamente non è così, perché lui cresce in una famiglia dell'aeronautica militare, quindi proprio da quando era ragazzino, e appunto cioè, è da subito che ha questi incarichi governativi con i servizi segreti e la cooperazione con la NATO. È lui a coordinare le operazioni della guerra dei Balcani con la NATO. Certo. Non è che ha solo partecipato al governo D'Alema e durante il governo D'Alema succede quello nei Balcani. No, lui è colui che coordina le operazioni, ecco. Promuove l'industria bellica, tant'è che infatti è lui a, durante il periodo appunto della questione degli F-35, che appunto ci fu, come ricordate, tutto la discussione, il dibattito molto accanito, no, di tutta la spesa pubblica per questo acquisto di, certo, F-35. E in realtà fu lui a parlare con l'ambasciata statunitense e tranquillizzare, dicendo che non c'era assolutamente nessun problema e che l'Italia li avrebbe acquistati questi caccia. Era una garanzia, perché appunto il suo ruolo e la sua posizione fanno sì che possa farlo, insomma non è una persona così, insomma, leggera. Certo. E appunto questa fondazione ICSA, che appunto si occupa appunto di analizzare gli aspetti della sicurezza nazionale interna ed esterna, l'evoluzione di modelli di difesa militare alle minacce esterne e ai fenomeni di illegalità in Italia, all'estero, sicurezza informatica, tecnologica, tutto quello che vi può venire in mente che riguarda appunto intelligence e controllo e sicurezza dei cittadini, riguarda la Fondazione ICSA, che fa un po' paura, perché appunto oltre al fatto che Cossiga, finché non è morto, è stato presidente onorario di questa fondazione. In realtà la fondazione, oltre a volte a ricevere finanziamenti pubblici, anche se è quello che ci preoccupa di meno, si occupa, cioè, ha degli scopi particolari. Uno è quello di promuovere e finanziare sui progetti di ricerca scientifica e analisi storiografica sui temi della difesa e dell'intelligence, oppure promuovere, finanziare e patrocinare manifestazioni ed eventi culturali sui temi appunto di intelligence, ordine pubblico, sicurezza e controllo, e in più può stipulare convenzioni con ministeri, enti pubblici e con imprenditoriali al fine di promuovere appunto la conoscenza delle politiche pubbliche in tema di sicurezza e difesa. E insomma questo ci fa pensare quanto sia pericolosa, anche perché appunto poi andando a cercare sul web trovate insomma poi alla fine queste promozioni, questi finanziamenti sono concreti, cioè nel senso effettivamente l'abbiamo detto spesso, no? Certo. Ci sono alcune facoltà con cui vengono fatti comunque delle collaborazioni, dei bandi di progetto, bandi di... Mi pare che tempo fa li avevamo anche analizzati, sì, i bandi universitari, non so se ti ricordi, sì, che erano legati al Ministero della Difesa e a tutta questa, quindi, compagnia. Qua ancora peggio, perché magari appunto finché è collegato col Ministero della Difesa, per esempio, persino era collegato con la NATO. Con la NATO, sì, sbaglio, sì, era con la NATO, c'era, sì, un progetto con la NATO. Qua sono fondazioni private che appunto sono sponsorizzate dai ministeri e che fanno sì che appunto con la scusa della ricerca scientifica preparano, hanno lo scopo appunto di occuparsi però di ordine pubblico. Ricordiamoci sempre che la NATO stessa ha fatto lo Urban Operation, il piano di Urban Operation 2020, no? Che era una che è, insomma, 2020 ancora non ci siamo, che è una programmazione che riguarda tutto quello che può succedere rispetto alle rivolte per riguardo alle popolazioni impoverite, sia nelle nostre società, e quindi tutte le modalità di rispondere a eventuali sommosse, rivolte, eccetera, eccetera. Quindi loro su tutti i fronti stanno mettendo in atto delle politiche di prevenzione. Loro sanno che può succedere questo perché sanno quello che stanno facendo in pratica. Assolutamente, anche perché sappiamo che poi l'applicazione di questi studi sulla sicurezza e sul controllo sociale riguardano effettivamente quello che è più vicino all'ordine pubblico, perché poi sì, effettivamente l'intelligence per quanto riguarda, diciamo, le guerre esterne, certo, è già ad un livello molto alto, e che rasenta veramente la fantascienza su quello che sono i loro strumenti di controllo. Cioè, le guerre ormai si fanno coi droni, insomma, poi ci possono continuare a dire che è una guerra guerreggiata, ma non è una guerra guerreggiata quella che combattono nei territori. È fatta da lontano, con delle armi. Almeno quella fatta dall'imperialismo nei confronti dei paesi che vogliono invadere. Comunque sotto me. Allora, rispetto però, prima di analizzare alcune cose dei decreti Minniti, bisognerebbe un attimo riflettere. Noi l'abbiamo fatto tante volte come coordinamento, è un po' un tirare le fila di quello che ci siamo detti in questi anni. Io mi ricordo che la prima analisi sui CIE l'abbiamo fatta nel 2010, e sul concetto di detenzione amministrativa, sulla pericolosità della detenzione amministrativa. Comunque bisogna un attimo tirare le fila e fare un piccolo quadro di quelli che sono i concetti di base dell'impostazione sociale neoliberista che appunto la socialdemocrazia riformista ha portato avanti per tanti anni attraverso il politicamente corretto, e adesso sta portando a sintesi. Allora, per esempio, un concetto fondante del neoliberismo è che la povertà è una colpa. La povertà è una colpa, e in effetti poi lo vedremo in maniera magari più specifica, in tutti i passi che sono stati fatti in questi anni, fino appunto al decreto Minniti, la repressione di tutta una serie di comportamenti che non sono altro che di soggettività marginali, che può essere dormire sotto i ponti o stare sulle panchine dei giardini pubblici o bere e mangiare per strada, no? Quindi la povertà è una colpa. Il concetto che la povertà è una colpa è proprio neoliberista, o meglio, è un certo tipo di impostazione borghese che ci ricorda quella vittoriana, perché è nel periodo vittoriano uno dei momenti più alti della borghesia imperialista, perché anche quella volta era una borghesia coloniale. Adesso la chiamiamo imperialista perché le modalità si sono spostate, però usa sempre il neocolonialismo, ed è un periodo, anche quello vittoriano, di estrema arroganza nei confronti dei subalterni, così come adesso l'iperborghesia e il neoliberismo si muovono con estrema arroganza nei confronti dei subalterni. La povertà è una colpa perché nella visione keynesiana, ma anche nella visione precedente, compresa quella cattolica, il povero diciamo, in questa terra era vessato, però avrebbe avuto il regno dei cieli, quindi di fatto era una condizione di dolore, però che aveva una sua dignità. Invece nell'impostazione protestante, che poi è quella di base della borghesia, la povertà è una punizione, perché il fatto di essere ricco è già un segno della grazia. Anche perché in realtà il neoliberismo si basa molto, questo anche su altre religioni, insomma, quella calvinista o quella protestante, certo, che invece hanno come il lavoro e quello che tu ottieni qui in terra come in realtà il frutto del tuo lavoro, il frutto di ciò che tu riesci a costruire. Quindi se tu non riesci a costruire niente qua, al di là di poi quello che ci avrai nel cielo, perché invece i protestanti erano un po' più cattivi sulla... che è in peccato, sei già in peccato e sei in torto in realtà e non ti meriti niente, certo. Quindi sì, va bene che ti pongo l'altra guancia, che ti faccio, però si vede che tu non ti meriti nulla, certo, qui in terra, perché non sei in grado, ecco. Quindi uno è il concetto che la povertà è una colpa. L'altro, per esempio, è la repressione dell'economia marginale di sussistenza, di sopravvivenza, che già Rosa Luxemburg, nell'analisi dell'imperialismo, aveva detto che l'imperialismo è una fase cannibalesca, perché di fatto tende a eliminare qualsiasi altro tipo di espressione economica che non sia in linea con quella imperialista. E infatti c'è una guerra feroce sia alle economie dei paesi del terzo mondo, sia quindi a tutte le economie che possono essere altre in senso lato rispetto alla fase imperialista del capitalismo, e sia anche le economie marginali qui da noi, perché i lavavetri, i posteggiatori abusivi, chi vende per strada le carabattole, chi apre di cielo non si possono, che non fanno lo scontrino fiscale, e non lo so, chi... appunto, chi l'ho vista nei cassonetti per rivendere quattro cose rimesse a posto, cioè tutta, chi vende i panini non autorizzato, i bagarini allo stadio, per carità, i cornettari dopo i concerti, no? Tutte queste economie di sussistenza, perché sono marginali, sono di sopravvivenza, vengono combattute ferocemente, come se fossero delinquenziali, cioè gli danno dei connotati delinquenziali. Allo stesso tempo il sociale è caratterizzato dalla richiesta del collaborazionismo, al cittadino cosiddetto per bene, e anche ai poveri, perché per riscattarsi devono collaborare e prestarsi in qualsiasi modo, anche rispetto ai sussidi, per esempio, che possono ricevere. Cioè. Un altro punto ancora è il lavoro volontario e gratuito, la tendenza al lavoro volontario e gratuito dalle soggettività più deboli, che in effetti già l'abbiamo visto con l'Expo, tra l'altro, però anche i migranti sono spinti diciamo una nuova schiavitù, perché il lavoro volontario non pagato e costretto col ricatto dell'espulsione di roba del genere, di fatto non lo so come sì, è una nuova forma di integrazione intesa come appunto... esatto. E poi vabbè, il problema della detenzione amministrativa, che non riguarda soltanto i CIE. I CIE, quando sono usciti, noi subito abbiamo detto che erano pericolosissimi, perché esprimevano questo nuovo concetto di una detenzione non per reato per colpa, ma per condizione, e quindi questo può essere esteso a qualsiasi forma di marginalità nel nostro paese, che comunque nei paesi a capitalismo avanzato possa essere di disturbo a quella che è la condizione di normalità, fra virgolette, che loro ritengono tale, no? E quindi è tutta una un insieme di percorsi che adesso nei decreti di Minniti sono stati portati a sintesi, percorsi cominciati diverso tempo fa, per esempio quella sul... Adesso magari Noemi l'analizzi più da vicino, però a me vengono in mente immediatamente quello che per anni è stato fatto sugli ultra, che sono stati delle cavie rispetto a questo progetto. Assolutamente, ne abbiamo parlato tante volte, dei dispositivi, il DASPO. Il DASPO, pensiamo, esatto, al DASPO e pensiamo a dove è stato portato e alla miopia a volte, no, di non renderci conto di quanto in realtà, appunto, quando vengono colpite piccole sacche sociali come appunto gli ultra o che ne so, l'immigrato nello specifico, poi in realtà questi siano in realtà delle sperimentazioni in realtà di ordine pubblico che poi vengono applicate, tant'è che adesso i DASPO si danno pure per i cortei, si danno per tutta una serie di situazioni. Infatti il decreto Minniti questo, cioè se noi andiamo a vedere adesso i punti fondamentali che introduce, per esempio, prima di tutto dà tantissimo potere rispetto all'ordine pubblico ai sindaci, che in effetti non dovrebbero essere gendarmi. No, però questo ce lo ricorda già il vecchio Cofferati, che con Bologna appunto aveva fatto di Piazza Verdi il suo banco di sperimentazione su quello che era l'ordine pubblico delle gestioni delle piazze per quanto riguardava appunto cominciare a insinuare almeno il concetto che effettivamente stare in piazza in maniera non educata, troppo rumorosa, scrivere sui muri, bersi la bottiglia col vetro, tant'è che abbiamo, cioè nel senso, tutte le città, insomma parecchie, almeno a Roma c'è, ci sono i decreti antivetro, decreto che nasce perché viene giustificato quando è stato messo per la prima volta, se non ricordo male, con Alemanno, però perdonatemi se sbaglio, sindaco, se è più recente, però credo di no. E in realtà quel decreto nasce con la scusa dell'ordine pubblico di evitare le risse in piazza e di pulizia delle strade, perché le bottiglie venivano abbandonate per strada e quindi per incentivare la pulizia si davano i bicchieri di plastica. Ora, certo, questo a dimostrazione del fatto che neanche loro hanno mai pensato ovviamente alla pulizia. Il problema però che si instaura in questo, perché poi vi invito veramente ad andarvi a leggere effettivamente il decreto, di questo potere ai sindaci, fa sì che appunto, a parte che diventino praticamente degli sceriffi, un po' ovviamente in collaborazione con quello che è la figura del prefetto, che in realtà già certo, è uno sceriffo, cioè nel senso il prefetto è uno sceriffo, certo. Dopodiché non credo che in rari casi vedremo un prefetto in contraddizione con un sindaco, ma perché semplicemente la gestione politica di una città non può permettersi quel conflitto tra certo, due, poi tra l'altro sarebbe un conflitto effettivamente semplicemente per un gioco di potere. Certo. E quindi hanno semplicemente preso la figura del sindaco e detto ok, anche tu puoi effettivamente occuparti di quello che è l'ordine pubblico, ovviamente con dei confini che il prefetto ha un potere maggiore. Certo. Comunque i punti salienti dei decreti Minniti sono quello sulla sicurezza, appunto il potere dei sindaci sull'ordine pubblico che possono... questa possibilità di dare il DASPO di piazza che dicevi prima tu, cioè di allontanare da determinati luoghi per determinati periodi più o meno lunghi a seconda della gravità delle persone che si sono comportate in maniera non si sa bene, perché è estremamente discrezionale che cosa significhi comportamenti contrari al decoro o semplicemente per ipotesi sulla sicurezza, cioè sei una persona che può essere, che è affidabile, tant'è che questo è stato utilizzato per il corteo Eurostop, i compagni fermati prima di entrare a Roma hanno un DASPO da Roma, quindi non possono più venire a Roma, ora non mi ricordo per quanti anni, però non ci possono stare proprio perché appunto ritenute persone poco affidabili, un po' pericolose quindi ricordiamoci, per i loro trascorsi in piazza ovviamente. Certo, ricordiamoci sempre appunto che questo è cominciato con gli ultra, poi con i notav, e quindi ha tracimato in questo decreto qua, però ci sono anche dei precedenti che riguardano, cioè vabbè, finiamo un attimo i punti del decreto altrimenti poi ci perdiamo, perché coinvolge talmente no, è complicato, infatti forse faremo anche un'altra è assolutamente questo, devastante, perché porta a sintesi tutto quello che di peggiore è stato espresso in questi anni dal... Perché l'altra cosa del ruolo dei sindaci è appunto quello che diceva anche prima Eli sulla questione del decoro, sì, quindi appunto decoro. Tutta la questione, no, del vagabondaggio o comunque del dormire per strada, della pulizia. Certo. Questo perché in realtà negli anni... Tutti quanti avrete fatto caso al proliferare blog, siti, no, di denuncia, questo poi porterà al punto successivo sul collaborazionismo, sì, da parte comunque di chiunque, no, dal cassonetto troppo carico al barbone che dorme davanti al portone, certo, o sulla panchina e oh mio Dio, i bambini non sono al sicuro... con questo zozzume che c'è in giro, e quindi in realtà con questo decreto in realtà viene fondamentalmente proprio deciso già appunto la Raggi, per esempio, per prendere un caso vicino a noi, aveva cominciato prima che il decreto fosse approvato con la questione del appunto dei secchioni e del rovistamento nei secchioni, tentando di capire come poteva poi concretizzare. Addirittura si era parlato di una multa amministrativa per chi rovistava nei secchioni. Diciamo che con questo decreto è istituzionalizzata, cioè legalizzata la persecuzione di chi rovista nell'immondizia. Esatto, e anche qui si va ovviamente a toccare e a puntare particolarmente, no, una categoria, certo, ben precisa, perché nel senso... Si contesta chi è povero, i Rom. Certo, le soggettività marginali in senso lato, sotto tanti punti di vista. Però, per esempio, una cosa che non si percepisce è il percorso che ha permesso questo. Cioè, il percorso che ha permesso questo è quello del politicamente corretto che tanti compagni hanno avallato. Perché nel momento, cioè, venivano fatte passare tutta una serie di cose come civili, no? Come più civili, cioè non si butta la carta per terra, non si parcheggia fuori posto, è meglio andare in bicicletta che in macchina, bisogna fare la raccolta differenziata. Allora, tutta questa, diciamo, tutti questi concetti, no? Uno dice, ah vabbè, ma la raccolta differenziata è utile, oppure non so perché devi buttare per terra le carte. Però hanno spostato dall'analisi politica dell'esistente a una spoliticizzazione generalizzata il modo di affrontare le cose. Certo, perché in realtà un'intera generazione è stata cresciuta, in realtà non tanto perché appunto non è il concetto base che è importante, cioè non buttare la carta per terra, è il fatto che si parli esclusivamente del fatto che il problema è la carta per terra, e quindi tutto diventa per la carta per terra, chi la butta. Il problema diventa di civiltà, certo. Allora, il problema diventa di civiltà, il problema diventa di perbenismo, il problema, e si perde assolutamente di vista perché sono fatte le leggi, poi si chiedono leggi, si chiedono multe, si chiedono cose di questo tipo. Questo è successo in questi anni, e la gente in generale si è assuefatta a una, diciamo, a essere sottoposta a tutta una normativa, una proliferazione di normativa terribile, passo dopo passo, senza rendersi conto di che cos'è la legge, che la legge è espressione di chi ha il potere. Se uno ti in pratica mette una norma di controllo, non è vero che controlla per il tuo bene, controlla perché c'ha un certo tipo di finalità. È la lettura politica che si è completamente persa. Certo, no, perché poi appunto nel momento in cui tu focalizzi il problema della normativa sulla carta buttata per terra o sul parcheggio selvaggio o su appunto la differenziata, tu pensi, vabbè, è una cosa piccola, comunque è una questione di civiltà, esatto. È giusto, non è sbagliato, vabbè, però la gente è incivile, e quindi ovviamente tutto questo avvalla, no, il piccolo foro che comincia a far, esatto, la piccola crepa che poi farà crollare però il muro. A quel punto poi si arriva, e non è una cavolata nel dire che tutte queste micro leggi di micro controllo sociale, cioè nel senso il fatto che ti facciano la multa perché cioè sono loro che rovistano la tua mondezza, ora capite un po' le mie parole, però nel momento in cui tu mi fai la multa perché nel mio sacchetto c'è una cosa che non dovrebbe starci, in realtà sei tu a rovistare la mia mondezza, in realtà, no? Certo. E quindi il controllo sociale c'è, è forte e passa, è passato inizialmente da queste cose, e queste cose hanno solidificato in realtà quello che è il collaborazionismo, no? Il collaborazionismo passa per questo, perché il fatto che prolificano siti, giornali, che ovunque ci sia una finestra su chi è più incivile degli altri, è maleducato o crea un problema, no? Non fa scattare una risposta politica, no? Cioè, nel senso, penso ai lavoratori, no? Che uno dice, vabbè, però che ne so, quelli che spazzano per terra o quelli che fanno le pulizie negli uffici, no? Che dici, vabbè, però se io butto la carta per terra, poi quella lì che viene lì a pulire dovrà fare più lavoro, è una questione di gentilezza, di cortesia, no? Però in realtà dove sta invece la risposta del lavoratore che dice, sai che c'è, io non pulisco? Certo. Se fosse, sì, cioè, sì, se sì, veramente allora faceva schifo per terra, perché allora il lavoratore non si è opposto dicendo questo non mi compete, non mi paghi per questo? Perché non è venuto meno è venuta meno la lettura politica di quello che succede. Ma un esempio eclatante è, per esempio, io dico sempre le strisce blu, i parcheggi a pagamento, le ZTL, perché tutte le questo tipo di normative che poi sono basate sull'esclusione di tutta una serie di persone da alcuni ambiti, no? Tipo i centri storici sono città degli dèi, c'entrano soltanto determinate persone, la città degli uomini è altra, è la periferia. La periferia poi viene letta come luogo pericoloso, come ricettacolo di persone, insomma, ai margini, e quelli che ci abitano lì sono i primi che vogliono che i loro quartieri non abbiano questa fama, e che quindi si danno da fare per essere rispettabili, per essere nella norma, per scacciare ancora più lontano qualsiasi tipo di individuo possa fornire questa immagine dei loro quartieri. Quindi è un meccanismo perverso, e tutte le cose che invece passano attraverso i soldi, come appunto le ZTL, che se vuoi entrare devi pagare una cifra molto alta, oppure i parcheggi, le strisce blu per cui tu devi pagare il parcheggio, eccetera, eccetera. Tutto quello che passa per i soldi è classista, sono provvedimenti classisti. La gente avrebbe dovuto fare un salto indietro, e invece non l'ha fatto perché un problema di civiltà, perché già dal posto giusto, perché i monumenti si rovinano e quindi nei centri storici non si deve entrare. È la ragione politica che si è completamente persa e che bisognerebbe recuperare e cercare di reimpostare, cosa difficilissima, perché l'idea della legalità si è espansa a macchia d'olio, attraversa le classi subalterne in maniera fortissima. No, certo, perché è rimasto in realtà solo questa conflittualità, la conflittualità che riguarda appunto la civiltà. Ma una civiltà che è completamente spoliticizzata da ogni punto di vista, e quindi rimane ovviamente solo l'involucro che deve in qualche modo essere il migliore possibile. In tante situazioni, no? L'imitazione, no? Della borghesia, e quindi la tendenza, no? A essere educati, puliti, per bene, ha fatto sì che comunque la lotta di classe venisse meno, perché per riuscire a farsi un angolino, un posto in una società che in realtà ti respinge, certo, si è sempre pensato di comportarsi a imitazione, no? Invece della classe che sì, in qualche modo opprimeva. Certo. Questo è sempre passato, no? E quindi questo si è trasformato in collaborazionismo. Semplicemente perché non viviamo in una società con una divisione di classe così netta come poteva essere, no? Post-rivoluzione industriale, in cui il proletariato era il proletariato e la borghesia era la borghesia e tutto era molto chiaro. Adesso col neoliberismo diciamo che questa divisione in classe è meno visibile, e c'è anche meno riconoscimento, cioè la mancanza poi di riconoscimento, di consapevolezza, sì, politica, fa sì che non ci sia riconoscimento nemmeno politico della propria classe. Certo. Quindi questo fa sì che appunto non si capisca bene come collocarsi e quale sia il nemico, cioè l'identificazione del nemico, l'abbiamo sempre detta, è un problema, non c'è più, non sapendo con chi te la devi prendere. Cioè, ti hanno portato a questo, anche perché la socialdemocrazia si è presentata con connotati di sinistra, e quindi questo è stato destabilizzante, è riuscita a far passare delle cose che neanche la destra più retriva sarebbe riuscita a far passare. No, ovviamente, anzi sarebbe stato facile con la destra, perché comunque ce ne saremmo accorti, sarebbe stato palese che ci stavano, no, reprimendo, e invece così no, la maggior parte non se ne è reso conto. Una cosa che mi è piaciuta tanto rispetto al collaborazionismo e alla servitù volontaria erano gli esempi che avevi fatto tu. Perché vabbè, faccio un breve, perché appunto le cose sono da dire, sono miliardi, tante, sì. E fondamentalmente nell'articolo 22 bis c'è questa parte che vi leggo così, sempre il decreto Minniti, sempre il decreto ovviamente, e per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività che sono appunto per la partecipazione dei richiedenti appunto alla protezione internazionale e ad attività di utilità sociale, e si possono predisporre anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai comuni che prestano i servizi di accoglienza e convertito, vabbè, insomma, quindi quello che si chiede è dire: vabbè, vuoi la protezione? Un modo per facilitare questo processo burocratico di richiesta di aiuto di asilo internazionale è quello del lavoro di pubblica utilità sociale. Non specificato cosa sia utilità sociale, però fondamentalmente ci ricorda un po' un sacco il lavoro volontario, certo. No, di cui sopra. Quindi che cosa succede? Ora, lo so che il decreto non era ancora legge, però si vede che qualcuno se lo si è inventato, perché a me sembra veramente strano che sia... che ho visto un sacco di casi per il quartiere di Prati, in cui ci sono questi immigrati che non parlano una parola di italiano nella maggior parte dei casi, con un cartello stampato a computer, scritto in un perfetto italiano, in cui fondamentalmente... scrivono che vogliono integrarsi nella nostra società che però sono disoccupati e che vogliono assolutamente, appunto, fare di tutto per riuscire a integrarsi e che quindi puliranno le nostre strade, tant'è che hanno una scopa e un oddio, non mi viene la paletta di plastica, quelle così sì, da sì, cinese sì. E chiedono un contributo di qualsiasi entità, questo c'è scritto così, oppure prodotti per la pulizia. Cioè, tutto questo appunto perfetto, attaccato su un cestino di plastica con lo scotch, e loro sono nei dintorni di questo cestino, visibili ovviamente, che puliscono. Ovviamente io ho pensato subito male, ho pensato che effettivamente questa cosa era, tra virgolette, era venuta in mente a qualcuno appunto di questo famoso terzo settore. Era organizzata in qualche modo da qualcuno del terzo settore, ma sì, assolutamente, assolutamente sì. Troppi indizi che, insomma, non era neanche scritto male, c'è cioè, scritto a computer, è scritto sì, troppo sì. In maniera in italiano perfetto. Beh, gli hanno consigliato di fare. Sì, veramente è stato un consiglio. Non sto dicendo che c'è qualcuno che gestisce il racket del lavoro volontario, assolutamente. È una mentalità. Però è la mentalità che appunto che può essere anche l'associazione di signore, sì, capito? Di... Sì, sì, è una mentalità che hanno. Però questa forma di integrazione è come se fossero dei lavori forzati, tu fai delle cose, io ti do in cambio gratuitamente, in cambio dei miei favori, perché l'Occidente ti fa il favore di accoglierti e di darti la possibilità di avere una chance in questa nostra eccellente società. Questa, esatto, no? E quindi appunto a me è veramente è assurdo, perché l'utilità sociale è folle, no? Appunto, a parte che con questo decreto ricambiano nome i centri, sì, i CIE non sono più CIE, sono centri di permanenza per rimpatri. Finalmente almeno ce lo dicono, cioè, che è così. Non è. E quindi appunto l'altro punto importante riguarda il tribunale, addirittura è possibile non portarti più in tribunale per la convalida, ma si introduce il mezzo audiovisivo. Quindi l'avvocato del richiedente appunto che richiede la convalida può addirittura non presenziare direttamente lì nel centro. Basta che un poliziotto confermi le sue generalità e dica che è in facoltà di rispondere. Quindi a questo punto proprio si salta completamente, non che appunto il tribunale sia un luogo in cui effettivamente, tra virgolette, si viene difesi, a parte da un avvocato privato, un luogo sicuro, no, però il fatto di poter uscire per potersi difendere, cioè nel senso, era comunque un minimo baluardo, no? Di, non mi verrebbe da dire di democrazia, però comunque di o comunque almeno di rappresentare se stessi, insomma, certo. Cioè, di non essere oppressi, di poter far vedere effettivamente in carne ed ossa quello che succede, perché sappiamo benissimo cosa succede all'interno dei CIE, delle carceri. E quindi appunto in questo caso è un poliziotto, nemmeno l'avvocato, cioè nel senso nemmeno il proprio difensore. No, hai passato con il famoso diritto borghese, chiamiamolo, sì, così, esatto, no? Di difesa, sì. È completamente cancellato. E appunto sì, si passa, cioè abbiamo proprio sorpassato la fantascienza, e quindi i diritti, anche quelli basici, quelli, sì, insomma, quelli basici, perché in effetti noi stiamo attraversando un cambiamento epocale, cioè la borghesia, così i principi della borghesia, così come noi li abbiamo conosciuti, così come vengono dalla rivoluzione francese, in tutti gli ambiti stanno venendo assolutamente meno. Cioè l'iperborghesia ha portato avanti una lotta di classe senza quartiere all'interno della classe, ha buttato a mare la piccola e media borghesia, ha inglobato all'interno delle strutture di potere polizia e tutte le strutture di controllo sociale a vario titolo, E questo cambiamento e ha fatto la scelta di rompere il patto sociale, questo è un cambiamento epocale per cui l'iperborghesia ha tolto di mezzo praticamente, non ha rinunciato, è una scelta precisa, quelle che erano le garanzie borghesi che aveva impostato la rivoluzione francese o comunque la borghesia così come noi l'abbiamo conosciuta. È un cambiamento epocale all'interno della borghesia, della conduzione del sociale, ma anche proprio dei percorsi all'interno della borghesia stessa. E quindi non so se abbiamo consapevolezza fino in fondo di quello che sta succedendo, ma sta completamente cambiando la società. E quindi a questo punto dice cosa fare, che fare, che dobbiamo fare, perché si pone dopo tutte queste cose che ci siamo dette e che chiaramente neanche bastano, perché ci stava venendo in mente che oltretutto noi come donne la violenza sulle donne è stata strumentalizzata a man bassa in questi anni in tutto questo percorso securitario che è successo. Quindi e pensavamo di fare qualche altra puntata di riflessione su queste cose, proprio perché sono tante e di svariato tipo, aprono scenari, eccetera. Però un primo punto lo possiamo anche mettere, nel senso che noi ci siamo chieste che fare. Uno dei problemi principali che attraversa il sociale adesso, o comunque la gente chiamiamola così comune, è il problema di aver introiettato questo concetto della legalità molto forte, e quindi questo dovremmo cercare di smontarlo. Come è difficilissimo, perché riproporre un'illegalità diffusa come c'era negli anni 70 e avere quindi una base su cui fare dei discorsi di alterità rispetto a questa società è praticamente tutta da costruire, una situazione di questo tipo. Però smontare il principio legalitario e securitario è fondamentale anche nelle piccole cose, cioè dalla necessità di rispondere a quello che ti pone il problema, che non so, i biglietti per là sull'autobus si devono pagare, o che a quell'altro che ti dice che non si deve rovistare nei cassonetti, perché adesso c'è anche questa tendenza del cittadino ben pensante che ti riprende. No? A tutte queste cose bisogna rispondere, perché altrimenti non si riesce neanche a mettere un granello nell'ingranaggio, un granello. Poi un'altra cosa importantissima è l'individuazione del nemico, quindi dire sempre chiaramente che questo percorso è il percorso della socialdemocrazia riformista, cioè non è un caso che Minniti viene dal PC, PD, DS, DS, tutta la catena, come tutti quelli che stanno portando avanti il neoliberismo, perché la socialdemocrazia riformista si è fatta carico di naturalizzare il neoliberismo nel nostro paese. Quindi il nemico principale è il PD. Il problema del PD è grave, perché? Perché a parole un po' tutte e tutti dicono sì, il PD, dicono tutto il male possibile, eccetera, eccetera. Poi che cosa succede però? Che il PD sotto mentite spoglie rientra nei percorsi anche dei compagni, e i compagni e le compagne si accodano. Voglio dire, nel momento in cui tu inneschi delle azioni o comunque delle manifestazioni o comunque dei percorsi femministi, per esempio, perché questo succede tantissimo nel femminismo, in cui vengono accolti e vengono seguiti, vengono accolte e seguite strutture che sono fondamentalmente PD, anche se non ce l'hanno scritto in fronte, però di fatto portano avanti sempre questo femminismo borghese. Esatto. E questo succede anche, per esempio, questo succede anche nell'antifascismo, perché la lotta antifascista, che è sacrosanta e che il femminismo poi deve fare propria, nel senso che toglie la discriminante antifascista, come ha fatto molto femminismo borghese nel 2009 è già indicativa di un posizionamento, però per esempio la lotta antifascista, avere ancora rapporti con tutta una serie di strutture, compreso l'AMPI, che ha un percorso fortemente reazionario e perbenista e riformista e socialdemocratico di questo tipo, è già di per sé un errore. Sta per arrivare il 25 aprile, vediamo un attimo che cosa... Cioè, riconoscimento del nemico e di chi porta avanti questo tipo di discorsi dovrebbe essere sistematico, continuo, preciso, puntuale, costante. È una cosa importantissima. Allora, detto questo, con questa tirata finale, vabbè, vi salutiamo. E comunque, qualsiasi osservazione vogliate fare, scrivete a coordinamenta@autistiche.org oppure... Oppure, appunto, se volete un blog, coordinamenta.noblogs.org. Quindi noi siamo aperti a qualsiasi tipo di considerazione e... perché vogliamo proprio aprire una discussione in questo senso. Ciao! Ciao! Ciao a tutte, ciao a tutti.